Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 27. Incubi, sogni e quello che c'è in mezzo. Drago era a casa sua. Ripuliva le foglie secche della sua pianta preferita canticchiando una melodia che aveva in testa dalla sera prima. Stasera sarebbero arrivati un po' di amici per una bella suonata notturna. La sala prova era pronta, la birra in frigo, l'animo lieto. Scese le scale quattro alla volta e uscì in giardino per godersi l'aria fresca e il profumo dell'erba pulita del mattino. Un tiepido mattino di inizio autunno. La stagione migliore, se proprio volete saperlo. Spock, il gatto, miagola un benvenuto rauco e si struscia sui pantaloni. Il pelo folto e asciutto gli solletica il palmo della mano, poi in un lampo scatta, inseguendo qualcosa di invisibile fra le aiuole. Billy al telefono aveva detto che aveva agganciato una coppia di amiche al pub. La serata si preannunciava interessante e poi doveva conoscere l'altra. La ragazza che aveva sbagliato numero di telefono, ma poi aveva richiamato per dirgli «Hai una bella voce». «Grazie, anche tu hai una bella voce». «Volevo dirti solo questo». «Va bene». «Beh, ciao». «Ciao». Poi, il giorno dopo, al telefono, ancora lei. «Io vado a Bagni Laura, e tu?» «Io vado dovunque». «Ma che tipo, ti disturbo?» «No, mi piace parlare con te». «E se ti chiamo ancora stasera?» Drago, per quella voce allegra, aveva scritto in pochi minuti la prima e unica canzone spensierata e romantica della sua vita. La sera lei lo aveva chiamato, lui le aveva suonato la canzone al telefono, lei era rimasta stupefatta. «Magari vado a Bagni Laura davvero prima di stasera». Chiuse gli occhi cercando di dare un volto appropriato a quella voce. Udì avvicinarsi una macchina. Dal rumore di vecchio macinino sembrava la Uno di Paolo. Aprì gli occhi per controllare. Ma non c'erano macchine. Era nell'appartamento papale, a letto. Il display della sveglia mostrava dei numeri incongrui, 1 e 18. Fuori era buio. Strizzò le palpebre. Si sedette sul materasso. Le cifre verdi non mentivano, 1 e 18. La finestra non era quella della sua camera. Quelle mura appartenevano a un altro mondo, non era casa, era Dio. Casa era una vita passata. Aveva trovato il Devil, aveva perso tutto. Non era un tiepido mattino in giardino, ma una umida notte romana. Non si era accorto del freddo prima, era stato il sogno più realistico che avesse mai fatto. Ora il silenzio pesava quintali sulle spalle. Drago bestemmiò. Davvero aveva voluto questa vita? Si alzò con il cuscino sotto braccio. Forse in un posto meno deprimente poteva continuare a dormire. Uscì dalla stanza. La finestra dell'Angelus era aperta. Roma sfavillava in lontananza. Fame, ma non di cibo. Il peso del silenzio nella casa diventò di piombo. Tornò sui suoi passi e scagliò il cuscino sul letto. Dov'era il maledetto cellulare? Era stato un secolo prima che lo aveva usato. Quando? Per chiamare il segretario. La stanza della segnatura. Dove diavolo si passava? Si sentiva ancora immerso dentro il sogno. I talloni nudi facevano rimbombare il marmo sotto i tappeti del corridoio mentre correva verso l'unico filo che non aveva ancora tagliato. Gli vennero in mente le ossa nelle catacombe. Il cellulare era faccia in giù sul sofà. Chissà se la batteria era scarico. Merda. No, stava solo premendo il pulsante sbagliato. Aristotele lo fissava burbero con la coda dell'occhio. Drago non gli diede la soddisfazione di rivolgergli lo sguardo. «Ti saluto, vecchio mio. In fondo i secoli bui non sono stati colpa tua, ma di tutti i cretini che credevano le tue stronzate. Ti sentirai solo? Chi ti sputerà adesso?» Finalmente il maledetto cellulare intelligente ottusamente si accese. Il numero di Mirko era il penultimo che aveva chiamato. Lo selezionò in viva voce. Niente. Era spento o distrutto. Per quel che ne sapeva, poteva anche essere crepato, lui e tutte le sue paure. Gli lasciò un laconico SMS. Chiamami. Il silenzio era tornato. Aveva bisogno di vita. Attraversò Piazza San Pietro camminando all'indietro, osservandola come se fosse la prima volta mentre si allontanava. Era desolata e scura, permeabile agli spettri che, ne era certo, la abitavano. A ogni passo l'abbraccio del colonnato si faceva più largo, quasi un arrivederci, ma il liscio obelisco in mezzo alla piazza era il dito medio che sanciva un addio. Non aveva trovato l'ispirazione che si aspettava. Si voltò. Via della Conciliazione era troppo ampia e vuota. Si infilò sotto il colonnato alla sua sinistra, lasciandosi guidare dal percorso, sperando che lo conducesse in strade meno deserte. Drago si addentrò nella notte. Camillo di Ossido terminò di collegare le decine di cavi degli occhi elettronici alle porte dello switch connesso al modem router alimentato a energia solare. In fondo qualcosa di buono Ocelot lo aveva fatto. I pannelli solari di nuova generazione, resi possibili dal dirottamento in tecnologie utili dei costi per gli armamenti, erano decine di volte più efficienti dei loro predecessori. I brevetti segreti legati agli eserciti erano stati resi pubblici, così come i codici sorgente di ogni sistema operativo esistente. Non credeva che si fosse arrivati così lontano. Era stato come fare un salto di almeno 10 anni nel futuro. Come entrare nel più gigantesco ipermercato di tecnologia aliena. Si era sbagliato davvero, i suoi pensieri lo avevano sempre bloccato. Avrebbe fatto meglio a pensare solo alle macchine, le sole entità che capiva fino in fondo e da cui era certo di essere capito. Dopo l'eliminazione del copyright e con la diffusione globale di informazioni, aveva scoperto che c'erano invenzioni che andavano al di là delle cose che aveva immaginato. Non vedeva l'ora di avere più tempo per trastullarsi con quei nuovi giocattoli. Poco lontano un pipistrello strillò. Era esattamente il suono che avevano cercato così a lungo ai vecchi tempi. Se solo avesse avuto un buon microfono. No, aspetta, non era un pipistrello. I pipistrelli non hanno voce da donna. Sembravano parole sconnesse, urlate dall'inferno. Una nube scura gli attraversò la mente. Da mesi non frequentava la disperazione. Vide che anche gli altri si erano fermati e fissavano interdetti il punto dove era sicuro che fino a poco prima ci fosse una macchia di alberi e cespugli, e dove ora c'era, paonazza e immensa, una suora. Acqua di Cane incespicava giù da una collinetta correndo verso di lei. Lo vide fermarsi lì accanto, portarsi le mani alla bocca, girarsi e vomitare addosso alla suora. Una nota lamentosa irruppe nel pianto disperato. Le anne stavano già correndo verso il posto. Ormai si era abituato a riconoscerle dall'andatura e dalle proporzioni, anche se erano confuse fra una folla di velate biancovestite. Doveva essere successo qualcosa di terribile. Un muro invisibile bloccava a una certa distanza tutti quelli che si avvicinavano al posto. Un alito di memorie di morte gli ghiacciò il sangue. Rabbrividì. Gli tremarono le mani. Le anne stavano guidando la suora smisurata lontano dalla confusione. Avrebbe voluto raggiungerle, ma le gambe gli erano diventate di gomma. Si udivano già sirene in lontananza. Mirko osservava il lenzuolo di nebbia che si stendeva sopra la valle. Il sentiero che lo aveva portato lì tracciava una striscia incerta fra i cespugli. Seduto su una roccia liscia, si tolse le scarpe e si massaggiò i piedi, scaldandoli al sole. Si grattò la barba sul mento. Anche se non aveva più bisogno di travestimenti, era irriconoscibile anche a se stesso. Aveva senz'altro bisogno di una doccia. I capelli lunghi gli pungevano gli occhi. sbuffando se li legò dietro la testa con un elastico blu. Appoggiò lo zaino a terra fra le gambe. Era ora di mollare la zavorra superflua. Un sacchetto pieno di mele e noci, indispensabili per sostenerlo durante le lunghe tratte solitarie fra un villaggio e l'altro, il termos che riempiva a seconda del luogo ove si riforniva di cibo, il suo quaderno per gli appunti, ancora preferibile per immediatezza e affidabilità a qualsiasi dispositivo elettronico, una custodia rinforzata impermeabile in cui aveva riposto l'antidevil, il cellulare, alcuni lettori MP3, ognuno caricato con un diverso tipo di musica, una bussola da esploratore, un caricabatterie a energia solare di nuova generazione con uno specchio esagonale pieghevole, un coltellino multiuso, 6 pezzi facili di Richard Feynman. Ne leggeva alcuni passaggi ogni giorno mentre faceva colazione. Cracker integrali sbriciolati nei loro pacchettini, barre di cioccolato al latte, alcune conchiglie a spirali multicolori, pezzi di legno nodosi simili a figure umane. In fondo allo zaino scarpe da ginnastica di ricambio e un paio di jeans, 2 magliette nere, una bianca. I sassi che aveva raccolto lungo il cammino pesavano troppo. A guardarli adesso, molti di loro avevano perso la lucentezza che avevano in spiaggia o nella rugiada dei campi. Quando un ciottolo attirava la sua attenzione per colore o per forma, non poteva fare a meno di raccoglierlo, pur sapendo bene che gli sarebbe stato impossibile portarli tutti con sé. Avrebbe dovuto fare una cernita. Alcune cose le avrebbe conservate per sempre, come la rosa del deserto che gli aveva regalato quella ragazza bella e buffa. Lo faceva ridere con le sue domande assurde, tranne quella volta che lo gelò. «Tu credevi in Dio?» prima del senza nome, intendo, gli chiese a bruciapelo una sera. Lui rispose mascherando l'imbarazzo con un sorriso. «Un pochino d'estate, quando le ragazze si scoprono». E lei, imperterrita, era partita a lodare il suo divino amico meticoloso. Così la lasciò, terrorizzato che potesse intravedere l'arcangelo sotto la barba. Comunque erano tutti oggetti indispensabili per la sopravvivenza fisica e spirituale. Non poteva abbandonare niente. Il vento gli fischiava nelle orecchie. Non si udiva altro rumore che lo stormire delle fronde. Aveva camminato fino a vedere il colore delle foglie mutare da verde a marrone a giallo. Ora la maggior parte del fogliame era caduto. Presto sarebbe arrivato l'inverno. Accese il cellulare per controllare la data esatta. Doveva essere pressappoco la fine di settembre. Si stupì quando vide che era già passato da alcuni giorni. Si stupì ancora di più quando realizzò che quel giorno era il suo compleanno. L'icona dei messaggi segnalava uno non letto. «Chiamami». Non era sicuro di volerlo fare. Era stato così bene negli ultimi mesi. Aveva visto un mondo rinascere. Nessuno lo aveva riconosciuto. Tutti avevano fatto a gara per accogliere e rifocillare quel viandante timido. Sarebbe stato così dappertutto? Non ne dubitava. Avrebbe voluto continuare il viaggio, ma si rendeva conto che il viaggio avrebbe potuto non avere mai fine. Se c'era un momento adatto per fermarsi, era quello. Chiamami. Le foglie a terra disegnavano un mosaico colorato di un'armonia così perfetta che sarebbe bastato appoggiarci sopra una cornice per creare un capolavoro. Come poteva fermarsi ora? Magari in seguito, se avesse iniziato a nevicare, se la neve fosse venuta giù troppo alta per camminare. Forse il viaggio non sarebbe terminato mai, ma non era il problema di quel giorno. Era il suo compleanno, e il suo regalo lo aspettava. Gli aveva steso davanti un tappeto soffice e musicale. Spense il cellulare e guardò il cielo. Alcune nuvole all'orizzonte, ma sicuramente non erano nuvole da neve. Chiamami. Certo, lo avrebbe fatto, la prossima volta che avesse acceso il cellulare. Tanto era sicuro che tutto andava bene. Che cosa poteva andare storto nel nuovo mondo? Drago, stravaccato su un'accogliente poltrona nella semioscurità della cripta dei papi, si godeva, bottiglia di birra in mano, la morbida musica dei Birds che suonava da una caverna attigua. Le gallerie brulicavano di gente. Da quando era uscito dalla sua volontaria reclusione in cerca di compagnia, si era diffusa la moda di tampinare il senza nome. Invano Drago cercava di tenere a freno quel soverchiante entusiasmo. Il gregge non lasciava il suo pastore. Persino lì, nelle catacombe, il vociare allegro della folla penetrava i cunicoli, si insinuava fra i resti umani che da millenni riposavano in silenzio. Era forse la prima volta che quelle ossa facevano baldoria. Alla sua destra una ragazza vestita di una aderentissima tuta rossa con una coda posticcia era adagiata su di lui, la testa appoggiata sulla sua spalla. A sinistra, ai suoi piedi, una ragazza tatuata in bikini era abbracciata a un suo ginocchio. Un intervento di chirurgia plastica le aveva donato orecchie appuntite da elfo. Impianti sotto pelle sulle braccia e sulle gambe imitavano le forme triangolari delle placche di stegosauro. Drago le accarezzava la punta delle orecchie con la punta delle dita. Va bene, direi che è tutto perfetto. In verità la birra è calda, pensò, ma era irrilevante. Gli era piaciuta l'atmosfera che si respirava a Roma. La città era molto meno popolosa rispetto a prima e gli echi del passato potevano finalmente avere il loro spazio, volteggiando innocui fra i viali semideserti. La gente pareva, ed era, felice. Aveva voluto capire se lo avrebbero seguito anche in luoghi sgradevoli, le catacombe appunto. Con non troppa sorpresa si era accorto che erano disposti a seguirlo ovunque. La sua presenza donava un'aria sacra a ogni luogo. Ovunque il senza nome andasse, c'era qualcuno che anticipava ogni sua necessità. Lo ricoprivano di offerte e a volte, non riuscendo a portarsi dietro tutti quei doni, aveva dovuto abbandonarli per strada. La città era rinnovata, la percorreva un'atmosfera magica che si riversava in ogni vicolo, in ogni piazza, sotto ogni ponte. Era rimasto sorpreso quando una notte, attraversando Trastevere verso le 3 del mattino, udì le note inconfondibili dei preludi di Chopin alzarsi dalle rive scure e fredde del vecchio fiume. Un anziano, dai capelli candidi come la neve, suonava un pianoforte a coda portato lì da chissà chi. Così preso dalla passione, non si era reso conto che Drago si era fermato alle sue spalle. Quando il meticoloso aveva accennato ad un applauso sommesso, il vecchio si era voltato e, visto chi era lo spettatore, era impallidito fino ad assumere la stessa sfumatura di bianco della capigliatura. Drago lo aveva ringraziato per la musica e gli aveva detto di non smettere, che la suonata era perfetta con la luna. Camminare per le strade della capitale dopo i lunghi mesi di isolamento in Vaticano gli aveva dato una sensazione di euforia. Non a causa dell'adorazione incondizionata tributatagli ovunque fosse stato, piuttosto si compiaceva di avere finalmente dato un ordine al millenario stato di caos che si era prodotto dai tempi della cacciata dal giardino dell'Eden. La grande opera era compiuta. Era ora che il senza nome scendesse dall'Empireo e si preparasse alla pensione. Avrebbe voluto dire rinunciare al potere. E il potere era così maledettamente gustoso che si sentiva vuoto al solo pensiero di rinunciarci, per non parlare di rinunciare alle sue adoratrici. Eppure il compiacimento non arginava la noia che continuava ad infiltrarsi nelle pieghe delle sue giornate corrodendogli l'anima. Si alzò in piedi. Le due ragazze lo imitarono, rapide e flessuose. Doveva organizzare qualcosa, ma cosa? Cosa poteva esserci di più esaltante dell'essere un dio? Forse organizzare dei giochi? Orge? Non aveva mai amato condividere con altri le sue amanti e senza dubbio non avrebbe iniziato ora. Eppure il grande mare della potenzialità infinita era lì che lo aspettava. Ma allora cosa? C'era già chi stava preparando il ritorno dell'uomo nello spazio. Lo aveva saputo dai resoconti degli informatori del perduto e non compianto pontefice. La conquista dello spazio era stato uno dei sogni più grandi di bambino, ma ora che era cresciuto sapeva di non essere adatto a fare l'astronauta, non con i requisiti fisici richiesti per poter lasciare l'orbita terrestre. e poi gli bastava sapere che si era riaperta la frontiera delle stelle. Umani coglioni! L'unica volta che avevano iniziato ad innalzarsi sopra i loro limiti, ci avevano presto rinunciato per tornare a darsi randellate da primati. Ah, se non ci fosse stato lui! Camminando sovrappensiero, era arrivato in un punto da dove quattro cunicoli oscuri si dipartivano in direzioni diverse. Le due ragazze dietro di lui mormoravano incerte. Mentre si voltava per prenderle sotto braccio, il cellulare nella tasca vibrò silenzioso. «Mirko», pensò. Rispose senza neanche guardare. «Ciao, socio, dove cazzo eri finito?» «Sono io». La voce di Diossido non lo rallegrò troppo e neanche il tono triste che vi aveva percepito. «C'è stato un incidente, il nero e il pescatore. Pensavo che avresti voluto saperlo. Domani ci sarà la cerimonia di addio».